un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Telefoni aperti da qui fino alle 19, ma se volete potete anche venirci a trovare. Siamo nel padiglione di Cibus e Italia all'Expo. Dovete andare in fondo se entrate dalla parte della metropolitana, poi trovate Giappone e Monte Carlo, vi infilate in mezzo come una Formula 1 e fate ancora 200 metri e arrivate qui. Carissimo Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Vi aspettiamo tutti, per telefono 800 24 00 24, oppure se venite qui vi regaliamo magliette, vi facciamo parlare, vi facciamo dire se l'Inter va retrocessa o no, perché oggi c'è questo grande tema della retrocessione dell'Inter per il caso Salah. Vi fate sentire ancora la musica sudamericana? Oggi siamo tutti cileni, carissimo Carlo Genta, grande festa questa notte per la prima Copa America della storia del Cile. Lo sai che il Cile non aveva mai vinto nulla. Non me ne frega fino niente. Fino a questa notte, nulla. Me ne frega niente, io sono tristissimo lo stesso perché il mio cuore batte per l'Argentina. Sì, non aveva nemmeno mai battuto l'Argentina in una partita ufficiale di Copa America. Questa partita non è mai stata giocata. No, è stata giocata e ha vinto il Cile, per i pochi che non lo sapessero, 4-1 ai calci di rigore. Io lo dico, bisogna essere dei perdenti di talento per perdere una Copa America contro una squadra che non ha mai vinto nulla e che non ti aveva mai battuto in una partita ufficiale di Copa America. Esatto. Bisogna essere dei gran perdenti a partire da Messi. Esatto. E per arrivare su Higuaín. Higuaín ha sparato il calcio di rigore decisivo non si sa dove. E non è neanche l'unico che ha sbagliato in questa stagione di partite e di rigori quando... La palla diventa pesante, Higuaín sta dimostrando di non esserci quasi mai, o quantomeno di non avere doti di leadership. Quanto a Messi, inutile continuare a fare i paralleli con Maradona, io l'ho detto mille volte, giocatore straordinario, però vediamo cosa riesce a vincere questa nazionale. L'Argentina, sì, io però trovo stucchevole questa cosa, che tutte le volte che l'Argentina, che non è solo Messi, è Messi più altri 22, più l'allenatore, tutte le volte che sbaglia una grande competizione, però... esce il paragone, Maradona è meglio di Messi, però, cosa che racconterà la storia alla fine della carriera. Devi essere decisivo, devi essere decisivo in queste partite. Messi ai mondiali dell'anno scorso è stato grandissimo nella fase a gironi, poi il suo rendimento è andato scemando fino a una finale in cui non si è visto. Anche in questo caso una grande semifinale con gli assist eccetera, poi quando arrivi al momento decisivo, cioè vai soprattutto in nazionale dai tuoi capi giocatori e Messi. Però non ha perso solo Messi, così come nel Barcellona non vince solo Messi. Intanto il nostro amico Tancredi Palmeri, che è a Santiago del Cile, proprio un minuto fa ha scritto su Twitter: incredibile, Messi ha rifiutato il premio come migliore della Copa America per evitare sul podio l'umiliazione già sofferta ai mondiali un anno fa. Ti ricordi che c'erano state anche delle polemiche? 800 24 00 24. Noi con questa bellissima musica sudamericana andiamo nel padiglione del padiglione. Abbiamo invitato anche un grande ospite che vuole festeggiare insieme a noi, Sua Santità Papa Bergoglio. A me mi sembra che non si festeggia niente. No, si festeggia, si festeggia. Ah, come vorrei un Cile povero per i poveri. E invece è l'Argentina che purtroppo è rimasta male, è rimasta povero. Io devo dire una cosa, che la pulce, perché se prendono tutti con la pulce? Perché la pulce di acqua l'ombra te rubò e ora tu sei malato. Sì. E la mosca d'autunno che hai schiacciato che non te perdonerà. Ha visto questa questa notte la partita è stata lunghetta, perché sì. 0-0 tempi regolamentari, 0-0 supplementari. Io seguo sempre la squadra del cuore e posso dire una primizia. Quindi ha visto anche i rigori. Anche a quei signori che stanno fuori del vetro, una primizia che salutiamo. Che noi salutiamo, non so chi siete, però vi saluto, bravi, bravi, vi saluto sempre. Io volevo dire questo, quando che ho visto che il Pipita andava sul dischetto, mi ha preso il panico. Sì. Mi ha preso il panico e ho sentito che un demonio si è impossessato del piede destro di Higuain. E allora ho cercato di fare da Santa Marta un esorcismo a distanza e ho incominciato. Non le è venuto molto. Aspetti un attimo che spiego. E ho incominciato a fare: esci da quel corpo, esci da quel corpo. E ho guardato Higuain e ho detto: è tutto come prima, non funziona. Allora ho riprovato, ho detto: esci da quel corpo, esci da quel corpo. Purtroppo è un caso disperato, un caso umano. Non ci resta che pregare, è uscito il calcio di rigore. Oggi ci sono delle foto meravigliose che girano sui social. A me non mi piacciono. Che tra l'altro quest'anno al Napoli aveva sbagliato, credo, 4 calci di rigore, compreso quello decisivo nell'ultima partita contro la Lazio, che è costata al Napoli il preliminare di Champions League. Ma perché dovete rivangare tutte queste cose? No, rivanghiamo. Io perché glieli fanno tirare. Facciamo cronaca. Lei farebbe tirare i rigori a Higuain? Ma non ci penso neanche. Ma neanche per tutto l'oro del mondo, che poi io sono per un calcio povero. Però se mi permettete, volevo dire una cosa di questo arbitraggio. Sì. L'arbitraggio mi è sembrato un poco casalingo, ma no, perché? Un poco allegro. Mi è sembrato sicuramente inadeguato. Qualcosa succede sempre. Il Cile ha giocato spesso in 11 contro 10, però questa notte. Lei comincia a fare la moviola. Caro Genta, lei lo sa che io adesso vado in Bolivia. Vado in Bolivia e masticherò le foglie di cocca. Sì, ma cosa c'è? Perché adesso spiego, se lei mi lascia finire, non lasciate parlare neanche il Papa. Capuano. E allora io mi sono detto: se io vado in Bolivia e posso masticare le foglie di cocca, non posso immaginare cosa che fanno i colombiani qua. E visto che Roldan è arbitro di Colombia, mi sa che ieri sera abbiamo esagerato sicuramente. Però insomma non ha fatto niente ieri l'arbitro. Sembra che se poteva fare anche qualche decisione diversamente. Ci sono state un paio di pigne mica da ridere per chi ha visto la partita. In ogni caso avremo cosa intende per pigne? Qualche calcetto, qualche. Mi sembra che è stato più di qualche contatto, calcetto. C'è Medel che ha esportato lo sterno di Messi a un certo punto nel primo tempo. La Coppa America è bella così. La Coppa America è bella così, ce la raccontava Paolo Condò in queste settimane. La Coppa America è maniche, quella, lei conosce Paolo Condò, Santità, assolutamente un grande giornalista che io ho apprezzo moltissimo. La Coppa America è quella manifestazione dove se uno è forte cercano di farlo sparire dal campo. È quasi un calcio antico, no? Se si torna indietro di qualche anno c'è un po' più di tolleranza arbitrale, ma bello così. Però questa notte non è successo, questa notte no. Messi ha fatto tutto da solo. 800 24 00 24. C'è il traffico, poi credo ripartiamo dalla Formula 1. C'è anche l'ambulanza, è venuta per lei o per gente? È venuta per lei, Santità. Ho sentito uno spoke pericoloso. La salutiamo, traffico. È che sicuro, 100%? Tutti convocati. Convocati. Si accendono i semafori sui motori, 2, 3, 4, 5, allo spegnimento il via della Gran Premio di Gran Bretagna che parte adesso con Lewis Hamilton che scatta bene, parte fortissimo Felipe Massa che prende subito la prima posizione. Cosa fa la Williams? Da dietro fuori si sono toccate le due Lotus Hamilton, ce la fa a mettere dietro Bottas e Rosberg che è rimasto nel traffico alle spalle anche della Williams in quarta posizione. La safety car che rientra, mette la freccia, inizia a spingere Felipe Massa con Lewis Hamilton che gli sta addosso, vuole subito andare a prendersi la prima posizione, si fa vedere, destra, sinistra, bloccaggio dell'anteriore destra per Hamilton, che va lunghissimo, ha provato qualcosa di impossibile, rientra al limite e si rimette davanti a Valtteri Bottas, ci sarà da discutere, Bottas va, Bottas davanti, che bella partenza, che bella gara per ora, con Rosberg che quasi tampona Hamilton e ci prova all'esterno, attenzione a Rosberg, vuole passare Hamilton, vuole arpionare la leadership del mondiale, sentite in sottofondo il boato del pubblico, quanta azione, va dentro Raikkonen al limite con Hülkenberg. La Ferrari che ha fatto un super lavoro a mettere Vettel nelle condizioni, con Bottas che va ovunque, non sta in strada, piove tantissimo, non è finita amici, non è finita, siamo nel corso del 45esimo giro, ma adesso si è scatenato l'inferno, si è scatenato il diluvio e Bottas va ovunque con la sua macchina, vediamo cosa succede lì davanti. Insomma, questo è il riassunto meraviglioso di Carlo Vanzini di un gran premio che magari sarà il più bello della stagione. Alla fine, quando ci volteremo indietro, primo Hamilton, secondo Rosberg, terzo Sebastian Vettel, ma grazie alla dea pioggia, e poi tutti gli altri, compreso il solito Kimi Raikkonen. Fammi salutare Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore, ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Che ci siamo persi, o meglio, che insomma, che gran premio è stato? Chi non ha visto cosa si è perso? È stato un gran premio divertente, finalmente, perché arrivavamo da una serie di gran premi in cui chi partiva davanti ci restava e c'era poco da raccontare. Invece le Williams ci hanno sorpresi al ponte via, poi la pioggia ha fatto il resto, ha scompicchierato un po' le carte. Hamilton finalmente ha deciso lui cosa fare, è rientrato ai box al momento giusto, ha fatto la scelta azzeccata e con lui l'ha fatta Vettel, scelta che ha portato Hamilton a vincere il Gran Premio. Tra l'altro in Gran Bretagna a Silverstone erano 5 anni che chi partiva in pole poi non vinceva, lui ha vinto, ha rivinto un anno dopo il Gran Premio di Gran Bretagna per la terza, era il suo terzo successo nella gara di casa, una cosa che hanno fatto soltanto i grandi, quindi è sicuramente la sua grandissima domenica, anche perché ha dimostrato di sbagliare solo in partenza, dove si è fatto sorprendere dalle due Williams, poi ha fatto una gara eccezionale. Mi sembra direttore che il dato politico di questa corsa sia che la Ferrari riesce a stare almeno con Vettel davanti alle Williams. Mi sembra che il testa a testa a questo punto sia tra Ferrari e una Williams che è cresciuta molto. Ferrari è stata davanti alla Williams perché ha cominciato a piovere. Sono d'accordo, però insomma, alla fine con la dea pioggia, con un po' di fortuna, la Ferrari è riuscita comunque a rintuzzare l'attacco delle Williams. Gli altri due davanti fanno il loro campionato a parte, che è già finito. E si conferma la crisi di Raikkonen, che a questo punto può essere considerato quasi separato in casa, no, alla Ferrari. Sì, anche perché le dichiarazioni di arriva bene post gara sono dure nei suoi confronti, perché si parla proprio di decisione del pilota di aver anticipato troppo la sosta per passare alle gomme da bagnato, e quindi una bocciatura della strategia del pilota, anche perché in condizioni del genere è giusto che sia il pilota a scegliere quando rientrare o se restare fuori, perché è lui che sa come si comporta una macchina su un asfalto in condizioni bagnate. Vettel e Hamilton hanno preso la decisione giusta, lui ha preso la decisione completamente sbagliata. Certo, forse loro che avevano in mano le previsioni potevano dirgli guarda che si parla soltanto di una doccia, di una shower breve, di breve durata per questa prima parte, quindi costringerlo a star fuori, però lì è giusto che il muretto stia a sentire il pilota. Purtroppo Kimi, che aveva avuto una buona qualifica perché era stato davanti a Vettel per la prima volta quest'anno a parità di macchina, cioè senza che Vettel avesse problemi come era capitato l'altra volta, poi in gara gli è sempre stato davanti fino al momento della scelta sbagliata, però mi sembra che si sia ormai messo in un tunnel da cui sarà molto difficile. Sì, parole di arriva bene che assomigliano, per chi conosce il codice cifrato della Formula 1, soprattutto nelle grandi scuderie, a una sorta di preavviso di sfratto. A proposito di arriva bene, vi faccio sentire arriva bene invece sul miracolo della pioggia e su Sebastian Vettel, che al contrario dal punto di vista della strategia in quei giri ha azzeccato tutto. Arriva bene. Non questa volta, cioè noi abbiamo dei ragazzi che lavorano in strade diverse, sono molto molto bravi e di cui ci si può fidare. È ovvio che in caso di pioggia si lavora in due, la chiamata è del pilota, quello che è successo con Kimi è evidente, cioè è il pilota che deve giudicare come lavora la macchina, lui ha fatto una chiamata anticipandola e è finita così. E poi invece sulla necessità della Ferrari di cercare di proseguire un percorso di crescita sul quale però io ho un'opinione differente, poi ne parliamo, sentiamo ancora Arriva Bene. No, io sono soddisfatto per quanto riguarda Sebastian perché ha dimostrato un'altra volta di chiedere di entrare nel momento perfetto e poi ha fatto un capolavoro in pista distanziando. Non sono contento perché dobbiamo essere onesti, se la gara fosse stata tutta senza pioggia il gap sarebbe stato molto molto diverso, quindi bisogna andare avanti e con umiltà e non fare i fenomeni perché abbiamo avuto un terzo posto grazie a un grande pilota e una grande strategia, ma ci vuole anche una grande macchina. Ecco perché il nodo secondo me è tutto qui, 800 24 00 24, cioè da tre Gran Premi a questa parte mi sembra che il processo di crescita della Ferrari, direttore Carlo Genta, si sia fermato e mi sembra che se questo è l'andazzo il bilancio di questa stagione fin qui non sia positivo, visto che la McLaren è sparita, la Williams ha avuto comunque delle difficoltà. Mi sembra che forse siamo stati frettolosi, eccessivi all'inizio nel pensare che fosse davvero cambiato qualcosa. Se è seconda forza se la Ferrari riesce a confermarsi seconda forza del campionato, è un risultato assolutamente positivo date le premesse, no? Poi ci sono state delle gare migliori, altre peggiori. Quello che preoccupa è che, direttore, il processo di crescita della Ferrari mi sembra si sia, non dico arrestato, ma proceda molto più lentamente, ad esempio rispetto a quello delle Williams. C'è stata la crisi Ferrari, è cominciata in Canada quando è arrivato il gettone per sviluppare i motori. Il problema è che senza interventi da gettone il motore Mercedes è migliorato sensibilmente dal Canada in poi, miglioramento che ha dato tanto a Hamilton e Rosberg, ha dato tantissimo anche a Bottas e a Massa. Da quel momento la Williams è tornata a essere pericolosa e la Ferrari soltanto con gare perfette o fortunate come quella di oggi può riuscire a stare davanti alla Williams. All'inizio dell'anno noi ci eravamo fatti abbagliare da una Ferrari che prima di tutto aveva una grande affidabilità, dal fatto che era la seconda forza del mondiale indiscutibilmente, però questo più che per merito della Ferrari, che sicuramente è migliorata dall'anno prossimo, è stato demerito degli avversari, perché la Williams era sparita, la Red Bull non c'è praticamente più, le altre squadre non sono pervenute, per cui il demerito degli altri ci aveva fatto credere in una resurrezione Ferrari che in realtà è ancora al di là da venire, perché su pista asciutta il distacco dalla Williams, dalla Mercedes. Sarebbe stato devastante come lo è stato in qualifica. Quindi è vero, si è presa una direzione, si sta migliorando, ma il miglioramento non è ancora quello che ci eravamo illusi ci fosse all'inizio della stagione. Sì, ciao Ciccio, ciao a tutti. Come Oh, presidente Renzi, il premier. Vi telefono dalla Grecia. Sono qui, sento degli stacchi tremendi attraverso il telefono. Sarà che i telefoni là non è che vanno benissimo. Sono qui per vigilare sul referendum, sì. Ma non ho voluto mancare assolutamente per esternare il mio compiacimento al 100% per questa maiuscola prestazione della Ferrari. Grande vittoria, no, bravissima la Ruta. Non ha vinto. Presidente, grande vittoria. Noi abbiamo questo problema, direttore, che il Premier interviene tutte le volte per celebrare le vittorie. Ma dovevate chiamarmi prima. Gli è venuta la prima volta. Io porto che ha vinto il Gran Premio, poi io porto fortuna e magari dopo la riforma della buona scuola con l'Information Communication Technology e coi green jobs riusciamo a fare qualcosa di meglio. Sto scherzando, si può fare qualcosa di meglio, magari facciamo andare il presidente perché completamente fuori posto oggi non ha vinto la Ferrari. Ciao, ragazzi, qualcosa di meglio bisogna fare, in realtà qualcosa di meglio bisogna fare. Adesso c'è il Gran Premio d'Ungheria, poi per un mese il mondiale si ferma e poi vediamo cosa succede quando riattaccheremo la linea a fine agosto. Sicuramente il Gran Premio d'Ungheria è meno sfavorevole alla Ferrari rispetto a Silverstone, quindi potrebbe essere un Gran Premio più interessante, però poi arrivano il Belgio, l'Italia, che sono piste dal punto di vista motoristico importanti. La Ferrari avrà a Monza sicuramente un'altra evoluzione di motore. Soprattutto credo che da qui a Monza, alla fine dell'estate, avremo la parola definitiva su Kimi Raikkonen, quindi sapremo se sarà Bottas, come tutto lascia credere, il suo sostituto, e si comincerà a lavorare sulla prossima stagione. Io sono ancora fiducioso sul fatto che una vittoria da qui alla fine dell'anno, magari con una botta di fortuna, possa arrivare, però sicuramente è una Ferrari meno impressionante di quella che avevamo visto all'inizio dell'anno. C'è da dire che magari l'assenza di Marchione dalla pista ha riportato la Ferrari sul podio, insomma, sulle ultime due gare il presidente c'era, lui stesso lo ha ammesso, quindi mi dice devo stare a Detroit a lavorare per fortuna. E tutti hanno tirato un sospirone di sollievo. Tutti hanno tirato un sospirone. C'è il traffico. Io ringrazio Umberto Zappellone, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi, buon viaggio. Ciao direttore. Ciao a tutti. Grazie. 800 24 00 24. Ricordo, siamo nel padiglione di Cibus Italia ad Expo a Milano, in fondo tra Giappone e Monte Carlo. Se venite qui, come tanti amici, prima c'erano due vecchietti che hanno fatto fermare le rispettive signore per ascoltare la trasmissione, ma poi mi risulta abbiano perso. Vedo che non ci sono più, e quindi li salutiamo lo stesso. Se volete venire qui, facciamo intervenire, vediamo le magliette, tutto quello che volete. 800 24 00 24. Facciamo anche parlare, facciamo anche parlare. Certo. Vi invitiamo a parlare invece noi dopo il meteo parliamo di calciomercato. Ciao a tutti, sono Serse Cosmi. Tutti convocati va in vacanza e di questo io sono molto orgoglioso. Ritorna il 23 agosto. Ritorna il 23 agosto? Ah sì? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Ho detto che Dzeko non è un giocatore vicinissimo alla Roma, ma la Roma pensa a Dzeko. Gervinho ha deciso di andarsene? No, ha cambiato idea, vuole rimanere a Roma. E questa è una buona notizia o una cattiva notizia? No, che per il tifoso, no, io non rispondo a Serone. Io mi sono già abbonato senza sapere chi compri, chi non compri. Tanto se sto aspettando, no. Noi siamo sempre lì. No, è una buona soluzione per la Roma, se torna a fare il Gervinho. Verde andrà a Frosinone, sì. Io non ho capito se il fatto che Gervinho non voglia andarsene e voglia restare alla Roma è una buona notizia o no per Sabatini. Questo è Sabatini e Valerio Mastrandrea. Sì. No, non è una buona notizia perché la Roma aveva già praticamente versato sul conto corrente i soldi che dovevano arrivare per Gervinho, che invece ha l'elastico attaccato alla schiena. Non so se sia vera tutta quella storia. Lui ha smentito di aver chiesto mari e monti, elicotteri e spiagge private, però il fatto è che Gervinho è tornato indietro. Dumbia è un giocatore in questo momento difficilissimo da piazzare a un pacco che la Roma ha preso, e parliamoci chiaro, e quindi non è facilmente intellegibile. Sì, anche se c'è un po' la sensazione che dietro questa volontà, ad esempio, di cedere Gervinho ci sia anche un messaggio chiaro che viene dato a Garcia, che ha avuto per 2 anni carta bianca sulla Roma ed evidentemente adesso le cose devono cambiare, sono cambiate. La parte finale di questa stagione è stata ritenuta non soddisfacente dalla proprietà, da Pallotta, dai dirigenti. Garcia è stato confermato, ma mi sembra che Gervinho sia un po' prigioniero politico, sì, in tutta questa triangolazione. Ma è strano, perché è passato dall'essere uno dei giocatori più importanti della Roma, addirittura nella prima stagione, nella stagione precedente, la chiave della Roma, era il trasformatore di energia per quella squadra. La scorsa stagione si è perso nella palude come tutti gli altri, è un giocatore molto particolare. Aspetta che chiediamo, e lo usiamo come cassazione, chiediamo cosa ne pensa ad Alfredo Pedullà di Sport Italia. Ciao Alfredo. Ciao. Il prigioniero, buon pomeriggio. Sì, prigioniero politico Gervinho, sì. Sono d'accordo al 101, non al 100, e non è una bella notizia, anche se giustamente Sabatini deve fare il suo e deve dire che è una bella notizia, però se una società aveva deciso di metterlo sul mercato, aveva accettato l'offerta degli Al Jazeera, per l'Al Jazeera aveva proposto circa 15 milioni, sarebbe stata una bella plusvalenza per la Roma. Adesso lui deve dire così, ma la Roma ha obiettivi molto chiari. Mitrovic, Baba e Dzeko sono i tre grandi obiettivi della Roma. Mitrovic dalla scorsa settimana una trattativa nata sotto traccia, ma che la Roma vuole sviluppare. Tra l'altro Mitrovic ha parlato nelle ultime ore, ha sposato il progetto Roma, è un 94 dell'Anderlecht, valutazione 16 milioni. Babbe è un esterno sinistro che conoscete bene, dell'Augsburg, è in cima alle classifiche di rendimento della Bundesliga, chiedono tanto ma la Roma c'è. E poi Dzeko è un sogno, perché io credo che la Roma cercherà di fare due attaccanti dopo gli esuberi. Gli esuberi sono Dumbia, sono lo stesso Gervinho che è arrivato un'altra proposta, sono Ljajic e destra, e per destro tra domani e martedì avremo una risposta definitiva, almeno per sì, quanto riguarda il Monaco. Perché se non vanno via questi, il tesoretto, il tesorone per andare a prendere i nomi che faceva Alfredo Pedulla, non c'è. Intanto oggi Roma che ha iniziato una stagione in maniera, posso dire, un po' surreale, cioè di fatto con la squadra dell'anno scorso, con anche poco entusiasmo, un non mercato fin qui, quello della Roma, e dovrà fare molto ma molto di più. Vi leggo il caso del giorno, che Alfredo conosce certamente, è scoppiato intorno a mezzogiorno. Questa mattina tutti si sono svegliati leggendo sui giornali che la Fiorentina aveva mandato questa lettera di diffida all'Inter: attenzione, state trattando un calciatore, Salah, sotto contratto, fermatevi. Inter indemoniata. Abbiamo appreso che potrebbe esserci Pulica, una letterina anche per la Roma, sì, che potrebbe arrivare dalle parti dei Sabatini nelle prossime ore. Poi oggi, intorno a mezzogiorno e mezzo, Paolo Panerai, che è un braccio destro dei Della Valle, è consigliere della Fiorentina da qualche stagione, è anche vicepresidente della Fiorentina, tira fuori tre tweet che vi leggo. Toni, Mutu, Gagliani sanno che la Fiore fa sempre onore, onorare le firme. Lo sa Montella e lo saprà anche Salah. Lo sa l'Inter, che provò già con Toni, ricordando qualcosa di qualche anno fa. Poi, se le società di calcio dovessero rispettare la trasparenza, l'Inter sarebbe già retrocessa. Questo Paolo Panerai. Che soldi sono di chi? A partire dalle Cayman. Quindi ci è andato leggero, su Twitter. E infine il terzo tweet: Platini sa che l'Inter è fuori dalla legge del fair play per Salah e per gli altri acquisti miliardari? È l'occasione per un'iniziativa esemplare. E questa è la cronaca della mattinata sui social di Paolo Panerai. Mi sembra eccessivo. Alfredo, ci aiuti a fare un pochino invece la cronaca di cosa sta succedendo in queste ore? Tu sei il re dei social e chiedi a me un'interpretazione su una cosa che chiaramente Panerai ci mette la faccia, ed è giusto che vada avanti lui, come è giusto che vada avanti la Fiorentina. La notizia sarà Inter non è nuova, ma è di 10 giorni, e l'avevamo data sulle beghe che potrebbero andare a finire in altre sedi. Sinceramente non me la sento di entrarci. Vorrei soltanto dire una cosa, perché la Roma è in stand by, ma si sveglierà molto presto. A me preoccupa di più lo stand by della Fiorentina. La Fiorentina è lenta, molto lenta, troppo lenta, gli uomini mercato non riescono a darsi una mossa. Io apprezzo e ho sempre apprezzato la coerenza della famiglia Della Valle, che ha sempre mantenuto e rispettato una linea. Voi ricorderete bene la storia di Montolivo, la storia, ne potremmo fare 200 di storie, Neto, la storia di Prandelli a suo tempo, Montella, Ljajic, Jovetic, Toni. Però a un certo punto io credo che occorra andare oltre e bisogna svegliarsi, perché il mercato della Fiorentina deve prescindere dalla vicenda Salah. E il mercato della Fiorentina mi sembra troppo lento, troppo frenato, soprattutto in presenza di un allenatore fresco di nomina come Paolo Sosa, che avrebbe bisogno di una maggiore tutela. Perché se io arrivo per la prima volta in un campionato che non conosco, lo conosco io soltanto da calciatore, e devo sorbirmi ogni giorno le vicende che giustamente la Fiorentina fa bene a portare avanti dal punto di vista della Fiorentina, avrà le carte in mano, avrà le motivazioni, avrà la documentazione, sì, poi penso che però, chi ha ragione. Io però penso che la Fiorentina debba un po' darsi una mossa su altri fronti. La Fiorentina ha altri goli scoperti, la Fiorentina non ha rinnovato il contratto ad Aquilani e Pizzarro, la Fiorentina c'ha questo caso Gomez, siamo al 5, 6, 7 di luglio, il mercato si fa secondo me con un tempismo diverso. Sì, assolutamente. Parliamo un attimo di Vidal, che questa notte ha alzato la Coppa America al cielo. Secondo le ricostruzioni questo dovrebbe significare il via libera ad andare al Real Madrid, perché la sua quotazione cresce e quindi anche la Juventus può essere interessata all'affare. Secondo me la Juventus è interessata all'affare. Non lo so perché comunque Vidal, visto Ferrari a parte in Coppa America, è un giocatore importante, è un giocatore che sta bene, che fa la differenza più di quanto forse l'ha fatta in questa stagione con la stessa Juventus, Alfredo. Ragione, sull'ultima stagione è un punto di domanda e forse due punti di domanda li potremmo utilizzare, però io faccio un piccolo passo indietro, anzi un grande passo indietro lungo quasi un anno. l'anno scorso di questi tempi ci avevano detto che Vidal aveva firmato col Manchester United, che lo aspettavano per la presentazione, che gli avevano dato la maglia numero 7 e che un po' mancavano soltanto i fotografi per immortalare il mondo, ma qualcosa non si è verificata. Quindi io su queste cose di certezze assolute ci andrei un po' piano, fermo restando che a poco meno di 2 mesi dal mercato sicuramente tra Vidal e Pogba qualcosa potrà accadere più avanti. Io penso secondo te la Juventus è interessata a cedere Vidal in questo momento? Se arrivasse una proposta da 30 milioni in su sicuramente la prenderebbe in esame, la valuterebbe, ma è normale che possa valutare una cosa del genere. Il mercato della Juve, malgrado le giuste dichiarazioni di Marotta, che ha fatto molto bene la Juve, insomma, credo sia certificato dai fatti, il mercato l'ha sempre pilotato e condotto nel migliore dei modi, non è un mercato finito, non è un mercato chiuso, c'è l'opportunità quadrato, ma ce ne possono essere, ce ne potranno essere altre nel momento in cui dovesse sbloccarsi una cosa importante in uscita, ma solo alle condizioni della Juve. Le condizioni della Juve sono in sintesi da 30 in su per Vidal, da 80-85 in su per Pogba, quindi dobbiamo stare attenti e sinceramente non credere a tutto quello che ci dicono, perché con rispetto che ho per qualsiasi fonte autorevole, l'anno scorso Vidal era già un calciatore del Manchester United. Ma cosa ha bisogno la Juve, Giovanni? Cosa sta cercando? Oggi, Quadrato oggi, che è un esterno me, o un trequartista che può essere Jovic? Un indizio, Carlo, l'abbiamo, la stampa che non è un quotidiano qualsiasi nel mondo Juventus, scrive che la Juve ha rifiutato un'offerta dal Real Madrid e ha fatto il prezzo 50 milioni per Vidal. Io non so se è un messaggio in codice, Alfredo, ripeto, lo scrive la stampa, il nostro amico Max Nerozzi, che ha entrature ad altissimo livello nella Juventus. Sì, non ci sono dubbi, 50 milioni l'anno scorso, l'estate scorsa, luglio scorso, sarebbe stata magari una proposta congrua oppure una richiesta congrua. Un anno dopo credo che sia un po' complicato trovare qualcuno che metta sul piatto 50 milioni. Sull'esterno mi permetto soltanto di aggiungere che è vero che si è parlato per un mese del trequartista, ma il famoso esterno e Quadrato avrebbe le caratteristiche, servirebbe ad Allegri, alla Juve, per cambiare sistema, perché è chiaro che tutti gli allenatori vogliono o intendono un po' aggiornarsi ed essere più imprevedibili rispetto agli ultimi anni, all'ultimo anno di Allegri, molto positivo e molto sostanzioso. Quindi Quadrato è soltanto e sarebbe la necessità non di contraddire il discorso trequartista, ma di trovare una soluzione che possa consentire alla Juve di essere ancora più imprevedibile. Quindi secondo me sarebbe anche una scelta intelligente. Si tratta di capire quando e come il Chelsea accetterà un eventuale prestito con diritto di riscatto, avendo pagato Quadrato i soldi che noi conosciamo, sì. E lo ha pagato 32 milioni di euro a gennaio sull'India. No, esatto, non a gennaio del 2013, ma a gennaio del 2015, e questo chiaramente potrebbe fare la differenza, ma è una storia e una partita aperta. Prima di salutarti per il traffico ti giro un sms di Gianni D'Andrea, che ha scritto al 349-238-6666. Hummels e Romagnoli, perché i milanisti sono anche un po' preoccupati della difesa del Milan in attesa di Ibra. Sono preoccupati in modo cronico della difesa. Che succede? Hummels credo no, Alfredo, mi sembra che stiamo al periodo ipotetico dell'irrealtà. Per Hummels in tempi non sospetti ci sono d'accordo, il Borussia Dortmund ha detto no a proposte anche da 35-38 milioni. È vero che il Borussia è un po' più, come devo dire, ridimensionato forse rispetto all'anno scorso, ma è una bella salita. Romagnoli, c'è il sì totale di Mihajlovic, il sì totale del Milan e il no della Roma. In questo momento la Roma non si siede per parlare di Romagnoli, magari fra 10 giorni cambierà idea, ma è una storia diversa rispetto a Bertolacci. Bertolacci era stato riscattato per poi mandarlo al Milan. Per Romagnoli in questo momento la Roma tiene. E quindi dovranno continuare a cercare un difensore centrale oltre a Mexes, che come abbiamo detto più volte rinnova per volere di Berlusconi. Esatto. Grazie Alfredo. Ciao Alfredo, grazie a voi, buona domenica a tutti. Ciao. Grazie ad Alfredo Pedullà. 800 24 00 24. Poi ci dovete dire se telefonate, se l'Inter va a retrocessa o no, e parliamo con un giornalista molto vicino alla famiglia della Valle. C'è scritto qui i tweet di Paolo Panerai, vicepresidente della Fiorentina. Se le società del calcio dovessero rispettare la trasparenza, l'Inter, ha scritto Paolo Panerai, sarebbe già retrocessa. Ma io sono orgoglioso di darvi delle chicche, sì, di calciomercato che nessuno ha ancora anticipato. Allora vi posso dire, facciamo così, delle cose clamorosissime. C'è il traffico, poi ci dai le chicche di mercato. Va bene. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 0024. C'è un amico che dice: dire che Vidal costa 50 milioni è come dire che Higuain ne costa 94, ma non lo diciamo noi, sono no, le cifre che in questo momento a inizio mercato girano, però noi abbiamo qui un grande esperto. Puoi anche dire che Vidal ne costa 2000 di milioni, cioè. Eccomi qua, ecco, eccomi qua. Se vuoi dire allora, o no. Allora, sentiamo le bombe di cose. Sono arrivato di velocità, le bombe perché di esattamente, gente, sono venuto, non so se sentito, lasciate, io sto girando musica qua e quindi stiamo ballando, sì, stiamo facendo un gran casino qui, esattamente, sono io e sto facendo un gran però casino. Andiamo sulle però notizie, ho due notizie veramente che faranno raccamponzare il che è un termine che ho appena coniato, certo, se non coniato almeno genero. Allora, tenetevi forte, tieniti forte, perché questa ci teniamo chicca fortissimo. La Fiorentina è incazzata nera perché l'Inter le vuole fregare Claudio Salah. Sì, non si chiama Claudio Salah, Patrizio Salah. No, Mohamed Salah, che tra l'altro questa notte ha twittato in arabo. E si vede salato perché non si perché capiva niente. Costa un casino di soldi. Ma comunque lo sapevamo. Prima notizia. Andiamo avanti. Questa no, la sapevate, sapevate assolutamente la niente. Ne abbiamo parlato anche prima. E prego, poi attenzione, perché c'è un giocatore della Juventus che potrebbe clamorosamente fare da bagnoschiuma ai giocatori del Real Madrid. Che sarebbe, io te temo. E appena temo, vinto la Coppa appena d'Africa, la Coppa America. Esatto, beh, anche se Cavani voleva spostare la Giamaica, ecco, Giamaica è la squadra africana. Queste sono le due bombe, ma poi ne ho una terza che ne è eccezionale. Ne hai un'altra? Sì, ma dopo. Dopo? Perché devo verificare dalle mie fonti. Va bene. Comunque la Fiorentina è incazzatissima. Sì, Patrizio Sala non si muove. Questo l'abbiamo capito, non è Patrizio Sala. 800 24 0024. In attesa di un grande ospite da Firenze. Io ve lo rileggo questo tweet, se le società del calcio dovessero rispettare la trasparenza, l'Inter sarebbe retrocessa. Che soldi sono di chi, a partire dalle Cayman e poi l'attacco, esatto, in Serie C, a Platini che dovrebbe controllare i conti dell'Inter. Questa non lo so, mi sembra che siamo un po' fuori dalle righe, un po' sopra le righe. Mi sembra siamo molto sopra le righe. Non credo che all'Inter siano così fessi da andare contro le regole che ci sono, sanno perfettamente qual è la situazione. Mi sorprende il fatto che sia un'Inter indemoniata su questo mercato, scatenata, come direbbe Piccini. Però bisogna fare esorcismo anche a quelli dell'Inter. No, Santità, la ringraziamo. Assolutamente. Scatenati, tra l'altro, addirittura con Higuain. Aspetta che saluto Enzo Bucchioni. Ciao Enzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Allora, tu devi rispondere a questa domanda, che è: scrive Paolo Panerai o scrivono i fratelli della Valle sotto mentite spoglie? Questo non lo so. Quindi andiamo un attimino, senza girarci intorno, andiamo al cuore del problema, visto che della Valle già con l'Inter, con Moratti negli anni scorsi, hanno avuto da dire. Oggi chi intorno a 12:30, prima di sedersi a tavola, ha tirato fuori questi tre tweet? Enzo. Sì, sì, no, pensavo le stessi leggendo. No, li abbiamo letti, li conosciamo a memoria oramai. Ah, bene, no, questi tre tweet che accusano l'Inter di fare cose finanziariamente scorrette dal punto di vista regolamentare per quanto riguarda il calcio. In sostanza, il Toir finanziere con i suoi conti, i suoi soldi alle Cayman, finanzierebbe il Toir presidente dell'Inter, e poi addirittura si dice che con interessi del 9%. Questi, sì, io non lo so, no, sono così, intorno all'8%, non al 9%. Sì, c'è stato un prestito, cioè praticamente Toir ha prestato i soldi alla Fiorentina con un tasso all'Inter con un tasso di interesse mica male. Però insomma è particolare che un club attacchi in maniera legale così forte. Esatto, cioè, è giusto e legale, lo fanno anche in Inghilterra, risulta. Poi dopo loro lasciano lì i soldi dentro e capitalizzano la società. Però non è Toir il primo che usa questo sistema. Cioè, vi svelo una cosa: fino al 31 dicembre del 2015 la Exor ha aperto una linea di prestito per la Juventus per eventuali esigenze di mercato, quindi di che stiamo a parlare? Però mi interessa più questa cosa della Fiorentina che attacca in maniera così frontale, così dura l'Inter, Enzo. Non so se sono dietro i fratelli della Valle, è probabile, di sicuro so che non sono assieme, perché Diego della Valle è a Capri e il suo amico Panerai non c'è, però di sicuro è chiaro, se Panerai è consigliere avrà parlato prima con il presidente, che ha di esprimere questa opinione molto forte, molto dura, un attacco frontale, il rischio di essere smentito potrebbe essere forte. Quindi io credo che sia anche il pensiero della società, che però, scusa, al di là di quello che dicono i regolamenti, di quello che hanno fatto e di quello che si fa abitualmente, è una situazione un po' anomala. dovrete, al di là di tutto, dovrete riconoscere con me che questa situazione dei fondi di investimento che entrano nel calcio, di soldi prestati al 9% escono da una tasca e entrano dall'altra, su questo il calcio dovrebbe fare un po' di luce e accendere gli riflettori molto forti, perché non credo vorrei purtroppo che, poi... che sia il calcio 2.0 o anche 3.0, Enzo, io in parte sì, ma poi voglio vedere quando dici. Sì, ma poi voglio vedere se domani il signor Trier dovesse andare via dall'Inter, sarebbe poi l'Inter e i suoi tifosi a pagare le conseguenze, perché gli interessi del 9% sono qualcosa di folle. Forse all'Inter gli converrebbe chiedere i mutui alle banche, a me me l'hanno dato a un tasso molto più basso e sono un comune mortale. So, mi sembra una situazione un po' strana, ecco, senza nulla togliere a quello che fa l'Inter, senza voler accusare l'Inter, per l'amor di Dio, i suoi tifosi ancora meno, però al di là dell'Inter io credo che economicamente questa e anche finanziariamente sia una cosa che non possa passare con... lo fanno tutti, a me non sta bene che lo facciano tutti, parliamo anche sì, del fondo Doha, che poi abbiamo criticato Moggi anni fa, e il figlio di Moggi, che avevano 330 giocatori in procura o quasi e controllavano il calcio. Se il fondo Doen, allargo il discorso, fra un pochino in Italia entrasse pesantemente e avesse 3 o 4 giocatori per ogni squadra, rispondete a questa domanda: sarebbe in grado o no di condizionare il campionato? Infatti il fondo Doen, per come ha operato fin qui, senza annoiare la gente, TPO, TPI, dal primo maggio è sostanzialmente fuori legge da FIFA e UEFA. Ti giro un messaggio di un amico al 349-238-6666 e ti dico che hai un minuto e mezzo e ci devi dire a lui, a noi non interessa, però a lui sì, ma ha ragione Salah o ha ragione la Fiorentina? La Fiorentina non riesce a chiudere. Questa è l'altra Salah, domanda delle... Non riesce a chiudere questo discorso. Allora, la Fiorentina ha fatto degli errori, secondo me ha sbagliato a non affrontare questo problema, sapeva che c'era, non affrontarlo in tempo, ha avuto molti mesi, probabilmente si è illusa dei sorrisi e dei sì del giocatore, l'ultimo sì l'ha detto alla fine del campionato, dopo la partita col Chievo è andato via stringendo delle mani, il posto ideale per me è Firenze, arrivederci, ci vediamo fra... Poi cos'è cambiato? Non lo so, ce lo possiamo immaginare, l'Inter, soldi, tutto quello che è successo, la Fiorentina è stata ingenua sotto questo aspetto, non c'è alcun dubbio, però loro pensavano che non avendo fatto valere questa clausola entro il 20, penseranno gli avvocati della Fiorentina, entro il 30 di giugno ci fosse in vigore il silenzio assenso, cioè la prova automatica del prestito, che ricordiamo il giocatore del Chelsea, perché invece pensa al contrario, cioè che pensa al contrario, se lui non confermava era automatico che non voleva restare, questo è un po' il nocciolo di tutto. Quindi dove sta la verità, dove sta il giusto, lo sbagliato? Non lo so, a questo punto lo dovranno dire gli avvocati, perché tu mi insegni che un cavillo può spostare qualsiasi cosa quando si vanno a discutere delle scritture addirittura private, che poi fra l'altro non è stata depositata. Io ho una sensazione che l'avvocato che sta guardando e difendendo Salah, guardando gli interessi e difendendo Salah, conosca poco il calcio, questa è una sensazione dovuta a diverse cose che metto assieme, diverse confessioni che ho messo assieme di varie persone che hanno dialogato con questo signore, conosce molto bene la finanza, è bravissimo a fare gli interessi dei suoi assistiti, però il calcio lo conosce poco, questo forse Salah non l'ha messo in conto, il fatto di non aver depositato questa scrittura privata può essere penalizzante, però ripeto, il giocatore è del Chelsea, il Chelsea ha sempre promesso alla Fiorentina che non l'avrebbe prestato in Italia, su questo e credo ci sia anche nelle scritture private fra Chelsea e Fiorentina. Quindi l'Inter, parliamo dell'Inter perché è sempre la squadra più vicina a Salah, o lo compra o in prestito in Italia, secondo quello che so io, che hanno detto a me, che dice la Fiorentina, Salah non ci può andare, può andare in prestito all'estero ma in Italia no. Quindi l'Inter, ma con questi fondi che arrivano da tutte le parti, deve sborsare 24 milioni altrimenti sono scorto. Quindi l'altra certezza è che se Salah doveva scegliere una società per fare un braccio di ferro, ha scelto, visto la storia della Fiorentina e di Della Valle, la società sbagliata. Grazie Enzo. Ciao Enzo. Grazie a voi, a presto, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grazie ad Enzo Bucchioni. Dopo il GR torniamo subito, c'è anche Pierluigi Pardo. Arriva. Un saluto coeso da Villa Certosa. La notizia molto positiva è che tutti i convocati vanno in vacanza. Quella negativa è che purtroppo ritorna il 23 agosto. Almeno ci fosse qualche gnocca. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Tutti convocati. Per quanto riguarda Salah non ha fatto alcuna telefonata anche per altri giocatori. Però la scheda. È stata l'estate finora in cui ha dovuto fare più telefonate della sua carriera da allenatore. Per quello avevo finito il credito e quindi, ma adesso poi è anche bello scherzarci queste cose, ma mi sembra normale che un giocatore che insomma cambia squadra e va in una squadra nuova, cioè è anche una cosa bella che un giocatore parli con l'allenatore e chieda, perché è giusto che debba sapere quello che lo aspetta. Normale, giusto, dice Roberto Mancini. Molto all'inglese, eh? Salà, io non l'ho chiamato. 800 24 00. Controlleremo i tabulati. Aspettate che c'è più anticipato. Pier. Ciao Pier. Pier. Urgente, malissimo Capuano, come mai? Ma invece noi per una volta ti sentiamo bene. Adesso. Mi senti bene? Io so che tu non ti sei ancora formato un'idea sulla questione Salah e su questi incredibili tweet oggi di Paolo Panerai, vicepresidente della Fiorentina, che chiede la retrocessione dell'Inter. Allora, noi stiamo facendo la radio 3.0. Sì. Abbiamo convocato il signor Dario, che passava di qua, di qui al padiglione Cibu 6 Italia, ad Expo a Milano. C'è la moglie fuori che sta facendo dei gesti. Adesso chiediamo il riscatto. Un paio di minuti lo lasciamo, perché il signor Dario Pier in realtà aveva la spiegazione di tutto. Eccolo. Adesso gliela facciamo dire. Prego. Sì, secondo me sarà buon giocatore, anzi un ottimo giocatore, e farebbe veramente bene all'Inter. Ma perché i Della Valle ce l'hanno con l'Inter? Ma credo che già Della Valle probabilmente, anzi senza probabilmente, erano soci azionari dell'Inter. Poi quando si staccarono dall'Inter, non so, forse... Quindi lei dice che ce l'hanno un po' con l'Inter, con Moratti, ma anche Moratti, con Tuir, abbiamo letto. Moratti, Pierco, come vedi abbiamo scelto... Era iniziato, diciamo, proprio perché, se non erro, per quanto riguarda Luca Toni, quando l'Inter decise di acquistarlo, e ostacolarono, diciamo, e quindi... Per Luca Toni sicuramente poi andò al Bayer, fece bene. Però è secondo il mio punto di vista, Luca Toni nell'Inter sarebbe arrivato al triplete. E quindi credo. Hai visto? Quindi anche lui, credo che anche Luca Toni un po' di rammarico di non aver, fatto la storia dell'Inter, forse. Come hai notato, Pier, noi non è che abbiamo preso un opinionista interista, abbiamo preso un opinionista super padre, super interista, partito da Angelillo, Antonio Valentino Angelillo. Non si ferma più, sennò c'è la moglie, la signora come si chiama? Si chiama Rosangela. La signora Rosangela ha pagato il riscatto. Lo lasciamo andare e lo ringraziamo, signor Dario. Arriva un sorciso. Volevi dire una cosa, Pardo. Perché non chiama in trasmissione Antonio Valentino Angelillo e parla del record dei gol 33 che non è stato ancora battuto? Pier, esci da quel corpo. Faremo uno speciale. Faremo uno speciale. È una mancanza, guarda che è una mancanza, perché questo uomo che ha fatto la storia dell'Inter è trascurato. Esci da quel corpo. Salutiamo il signor Dario, è stato grazie. Il signore la benedica, la Madonna, però la moglie lo reclama. Quando avete bisogno di me, chiamiamo. Quando vuole, dove siamo? 800 24 00 24, perché non è che siamo sempre qua. Io mi presento Dario, Lei si presenta Dario e noi il suo parere lo mandiamo via. Vado perché poi la moglie mi tira le orecchie, perché tra l'altro è milanista. Ecco, anche il cognato, il matrimonio mitico. Che, grazie signor Dario. Cosa ne pensi tu di questa storia qui della Fiorentina? Io mi fa impazzire questa storia di Salah e di questi tweet del vicepresidente Panerai. Dai, sì, dimmi la tua. Ci sono sempre a proposito di tweet, ci sono anche i tweet di Salah che risponde ai tifosi, che ringrazia ironicamente per le tante belle parole che gli sono arrivate. Ma insomma, è una. È chiaramente c'è la volontà del giocatore di lasciare il club, chiaramente c'è questa scrittura privata che si presta a interpretazioni molto diverse e quindi che la Fiorentina interpreta in un modo e che il giocatore interpreta in un altro, chiaramente, ti ripeto, c'è stato un interessamento forte. Quello diceva Mancini prima in conferenza stampa che sentivamo, che sta, cioè che un allenatore possa sentire un giocatore in un mondo di libertà, insomma, con la libertà di comunicazione che esiste tra individui. Perché giustamente gli amici da casa scrivono al 349-238-6666, ma come? Parla la Fiorentina che è andata a prendere Paulo Sosa che era sotto contratto dal Benfica. Anche lì qualcuno avrà telefonato, no? Però ci sta che la Fiorentina si scocci se se c'è una manovra di disturbo su un giocatore che è vero. Quanto si diceva prima, la Fiorentina sta facendo gran fatica nel condurre questo mercato, è una storia che va avanti anche da troppo tempo, no? Quindi sì, manovre di disturbo si possono stare. È la prima volta che la Fiorentina litiga sul mercato, si ricorderete il caso Berbatov con la Juve di qualche anno fa, ma insomma io penso che al di là del fatto che oggi sembra essere il giorno dell'impopolarità più totale per l'Inter, perché ci sono state anche le dichiarazioni del papà di Imbula che sì, che vogliamo accusa. Ricordare, ha detto papà e agente di Imbula, l'Inter mi fa vomitare. Prima ci hanno contattato, poi non si sono fatti sentire per 4 giorni e poi quando è arrivato il porto alcuni loro intermediari mi hanno anche minacciato, così il padre e agente di Imbula Domenica Bella dell'Inter che festeggia questo inizio di luglio, così Pier. Sì, appunto, quindi insomma diciamo che oggi non si è fatto mancare niente, però devo dirti che qui il caso poi alla fine è un caso strettamente legale, nel senso che comunque la Fiorentina ha fatto questa offerta, non ha ricevuto la risposta dal giocatore, la rottura è arrivata, adesso la possibilità concreta è quella di una battaglia legale, questa scrittura privata che secondo il procuratore, l'entourage del giocatore gli consentirebbe di liberarsi, però per la Fiorentina pare che non sia mai stata depositata e quindi da questo punto di vista la Fiorentina difende il diritto di tenersi il giocatore con l'offerta fatta. Sappiamo poi in realtà che comunque mi sembra impossibile anche se poi la Fiorentina avesse ragione e quindi si è arrivata a una conclusione legalmente dalla parte viola, mi sembra impossibile che Salah possa giocare, diciamo, nella prossima della Fiorentina, sì. Io vedo difficile anche che giochi nell'Inter, perché i tempi sono comunque lunghi, certo. Se poi tu entri in vertenza, invece sono più stretti i tempi del traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Come le caratteristiche, il Shaarawy è un esterno, ma lo proviamo a inventare un centrocampista, un interno, perché caratteristiche potrebbe averlo, bisogna vedere il suo adattamento e la sua voglia, no? Parlando anche con un ragazzo mi ha dato la piena disponibilità, perciò vedremo se riusciamo a farlo. Lo vedo da sempre mediano sinistro. Facciamo, è quello vero, Berlusconi non era il nostro Andro Mercu, facciamo un sondaggio volante, Pier, Carlo Genta, magari anche le persone da qui che ci stanno guardando. Allora, credete o no nel Shaarawy riciclato interno di centrocampo? Tanto per cominciare ci crede Berlusconi. Sì, quindi perché farà l'interno di centrocampo. E quindi dicono che sul famoso foglietto, sulla famosa velina consegnata a Mihajlovic ci fosse questa variante tattica. Poi non so quanto sia realtà, quanto sia leggenda. Innanzitutto secondo me El Shaarawy deve ritrovare una salute decente, perché sono praticamente 2 anni che non gioca. Poi se ha una salute decente può anche, e ha voglia di fare quel ruolo, perché no? Perché ecco, no? Se mi permette, volevo intromettermi semplicemente per aggiungere che la salute di El Shaarawy, come la salute di tutti i calciatori e di tutti noi, dipende dal fatto se c'è la gnocca o se non c'è. Se la gnocca c'è, la salute c'è. Allora, intanto prima di sentire il parere di Pierluigi Pardo, saluto Mario Beretta che abbiamo convocato per spiegarci se ci sta Presidente, si contenga. Si contenga, Presidente. Vediamo se è d'accordo, con la teoria di Andro Merkel. Berlusconi. A chi lo chiediamo, Mario Beretta? Tra, no. Con la salute e la presenza di donne nella propria vita, direi di sì, dai. Sì, almeno quella psicologica. In linea di massima, sì, però stiamo parlando di Esharawi interno di centrocampo. Qui questa è una trasmissione sportiva. Io vi richiamo all'ordine. Allora, mi fate salutare Mario Beretta. Beretta, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Chi è che deve ancora votare nel sondaggione? Allora, Pardo, Esharawi sì o no? Interno di centrocampo, cioè, ti convince? Verrà provato sicuramente, anche perché ha detto Berlusconi, e quindi farà. Provato. È molto intrigante, perché Real Madrid, tanto per essere chiari, con Di Maria nella posizione di centrocampista che ha vinto la Champions, cioè riuscire ad adattare un giocatore tecnico con quelle caratteristiche in un ruolo dove però deve anche sacrificarsi significa guadagnare tanto in termini di qualità. Secondo me non è impossibile perché stiamo parlando di un giocatore che ha un grande senso del sacrificio e anche un ottimo dinamismo. Non è neanche l'impresa più facile del mondo, sinceramente, e poi si rischia di trasformare un giocatore che davanti ha dei colpi abbaglianti in un centrocampista che fa il suo lavoro, che fa il suo compito, un giocatore normale, normale. Adesso sentiamo Mario Beretta. Intanto io dico a quelli che sono fuori qui da dove trasmettiamo, padiglione Cibus Italia all'Expo, che ci sono le magliette in regalo, perché qui, quindi anche al signore con la moglie, se vuole, poi si siede e continua ad ascoltare la trasmissione. Mister, Esharawi sì o no interno di centrocampo? Ma innanzitutto non so chi è intervenuto prima e l'ha detto, e sono Luigi d'accordo Pardo, con lui. No, prima ancora si diceva che il discorso del sono prima di tutto c'è un aspetto fisico da curare, nel senso che in effetti 2 anni che non gioca, quindi è un ragazzo così giovane, prima di tutto deve star bene, fondamentalmente deve dare continuità al gioco, ed è la prima cosa, il primo aspetto. Il secondo, per quanto riguarda l'aspetto tattico, sicuramente dal punto di vista è importante che dal punto di vista organico sia in grado di farlo, e credo che sotto questo aspetto non ci siano problemi, perché anche quando giocava diciamo da punta esterna comunque rientrava, dava una mano, quindi spirito di sacrificio e qualità fisico-atletiche dovrebbe averle. Fare il centrocampista però dal punto di vista tecnico-tattico vuol dire anche avere tempi di gioco, tempi di costruzione e di sviluppo che non è che si inventano e si trovano così velocemente. Bisogna vedere se lui li ha e se è in grado di averli con l'allenamento, perché essere in mezzo al campo è diverso, non è che essere davanti, anche se in realtà oggi sulla Gazzetta dello Sport, credo, Pier, abbiamo scoperto da uno dei primi allenatori che ha fatto settore giovanile con Esharawi che lui nasce centrocampista e poi man mano col passare degli anni si è avanzato, ma fino credo agli allievi giocava nella posizione in cui lo vede Berlusconi. Alcuni amici scrivono al 349-238-6666: vedrete che Mihajlovic capirà che Esharawi è un centravanti e farà la fortuna del Milan e del giocatore. Oppure Sebastiano che scrive: se fossi nel Esharawi chiederei di andare via per giocare con continuità nel mio ruolo naturale. C'è un po' di perplessità, però c'è un po' di perplessità. Giocare con continuità in che senso? Cioè, è un giocatore che è stato più in ospedale, in infermeria, che non sul campo. Io dico che a me Mihajlovic non è sembrato convintissimo a guardarlo in faccia l'altro giorno quando veniva, insomma, si parlava di questa svolta. Io non so, Pier, anche il mister Beretta, che idea vi ha fatto Mihajlovic? No, ma sì, è chiaro che Mihajlovic poi è all'inizio del suo percorso con Berlusconi, che è un personaggio certamente carismatico e qualche volta però può anche mettere in imbarazzo gli allenatori, proprio perché entra anche apertamente in una sfera tecnica e quindi magari li porta a dover fare un po' i vaghi o a fare un servizio di circostanze in certe situazioni. Io ripeto, credo, e la conferma ce l'ha data il mister, credo che lui abbia le caratteristiche di fisicità e fisiche, sia di atteggiamento, quindi di spirito di sacrificio, sia dal punto di vista fisico, delle caratteristiche biologiche, organiche, che aveva Beretta, giustamente, per poter fare quel tipo di lavoro, nel senso che lui non è mai stato un attaccante pigro, un attaccante che non partecipava, è sempre stato un giocatore, anzi, che si dannava l'anima per aiutare la squadra, quindi da quel punto di vista certamente sì. Il dubbio è quello che dice il mister, cioè che poi comunque non è che ti inventi di giocare a testa alta, il saper costruire il centrocampista, non è che lo inventi in pochi minuti. Il fatto che sia un giocatore tecnico non vuol dire che sia necessariamente un giocatore tecnico capace di fare la differenza in mezzo al campo, no, e soprattutto tempi, il fatto che i suoi colpi, quelli che abbiamo apprezzato in quei sei mesi fantastici prima dell'arrivo di Balotelli, chiaramente da una posizione di attaccante li puoi fare a centrocampo, è molto più difficile perché parti 30 metri dietro ed è molto più difficile riuscire ad arrivare al tiro, quindi ripeto, è una strada lunga. Possiamo dire che è una scommessa, la possiamo etichettare come scommessa più che un convincimento. Invece mi piacerebbe sapere da Mario Beretta se gli piace, se può esistere eventualmente, arrivasse Ibra, un Milan con Ibra, Luis Adriano, Bacca, magari un centrocampo dove c'è Bertolacci che comunque è un giocatore offensivo, dove magari c'è il Shaarawy che è un attaccante riciclato a centrocampo, o stiamo un po' mettendo troppo, mister? Mi sembra che prima di tutto si debba cercare equilibrio di squadra, come giusto che sia e come ci deve essere sempre per poter raggiungere altri risultati. Obiettivamente così mi sembra un filino sbilanciato il Milan appena però per la voglia di dire poi Ibrahimovic vuole spazio là davanti, no? Esatto, non mi sembra avendo già preso questi attaccanti che sia così importante andare a riprendere Ibrahimovic, che non è proprio un ragazzino peraltro, quindi seppur è un grande campione. La Juve senza il 10, parlavamo prima con gli esperti di mercato che alla fine potrebbe arrivare Cuadrado e non il trequartista che Allegri chiede da gennaio, la convince o rimane un progetto incompleto? No, ma la Juventus ha... cioè resta forte, non stiamo dicendo il contrario, però... Sì, no, infatti, no, ma credo che l'abbia dimostrato quest'anno, tra l'altro Allegri passando dal 3-5-2 al cambio di sistema di gioco 4-3-1-2 e utilizzando anche comunque in alcune circostanze ritornando al 5-3-2, quindi secondo me hanno le al di là della qualità dell'allenatore di poterci lavorare su, ma anche hanno la possibilità con i giocatori che hanno di poter variare i sistemi di gioco, e credo che tutto sommato questo sia un valore aggiunto. Pier, anche se Allegri continua a chiedere il trequartista. Ma certo, ma Allegri secondo me ha bisogno di un trequartista, e è chiaro che la successione Cuadrado è una successione molto interessante, perché è un giocatore che salta l'uomo come pochi, che ha una grande capacità nello stretto, insomma, quindi è chiaramente, e poi arriverebbe insomma, dopo la bocciatura di quest'anno, di questi mesi, potrebbe arrivare probabilmente a delle condizioni migliore rispetto ai 35 milioni ai quali era arrivata la valutazione qualche tempo fa, però secondo me la soluzione migliore rimane quella di un trequartista. Io di tutti i nomi che ho sentito, quello che preferisco è Oscar, se preferite. Sì, sì. Mi sembra il giocatore più adatto, perché mi sembra un trequartista moderno, un trequartista che può fare anche, ecco, lui sì, all'occorrenza può fare anche il centrocampista in determinate situazioni, il centrocampista appunto l'intermedio in mezzo al campo. Mi sembra il completamento perfetto per un attacco che ha dei grandi cannonieri, ma che ha bisogno di un po' di geometria. Sì, ha bisogno di cambiare. Rubo ancora 30 secondi a Mario Beretta per chiedere, tra Napoli e Roma oggi 5 luglio 2015, chi è, non dico più vicino, diciamo meno lontano dalla Juve e un po' più avanti nel lavoro di ricostruzione? Per me la Roma, per il semplice motivo, innanzitutto, vabbè, non sta cambiando molto, ma è un allenatore che è già il terzo anno e quindi per certi versi conosce molto di più l'ambiente rispetto a un allenatore esordiente, seppur bravo come Sarri, che però è al primo impatto con una piazza difficile, complicata e estremamente esigente. Sì, ecco, solo per questo bisognerà dargli del tempo. Grazie Beretta. Grazie mister. Buona giornata. Buonasera. Grazie Mario Beretta. Sì, una saluta al presidente Berlusconi con la sua teoria su attaccare. Se gioca con Bacca, Luis Adriano, Ibrahimovic e il Shaarawy, Bertolacci, insomma, nella famosa amichevole del giovedì che Berlusconi vorrebbe istituire a San Siro, no? Sì, Milan italiano contro Milan straniero e una fetta di pizza per tutti, 10 euro, così l'abbiamo detta tutte. C'è, che cosa c'è? Il meteo fa caldo, ve lo diciamo, no? C'è la pubblicità, allora, il meteo lo facciamo noi, fa caldo. 32,9 in questo bellissimo meteo, studio, prego. Io mi e offro, poi lancia la pubblicità. Avete piacere, posso fare il meteo. Noi continuiamo il casting per la qualsiasi prossima. Cosa, voi sapete che sono a completa disposizione. Comunque resta il fatto di quanto vi dicevo, che le cose fondamentali, come lei ben sa, sia per il Milan, per la salute. No, non ci dica ancora. No, dico semplicemente cosa c'è. La pubblicità. Allora lanciamo la pubblicità e viva la gnocca. Fratelli e sorelle, la trasmissione Tutti Convocati va in vacanza, ma con le vostre preghiere ritornerà il 23 di agosto. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Son así, Chile se queda con la Copa, Argentina pierde en esta definición desde el punto penal. Así es el fútbol, así son los penales en un partido muy parejo, en un partido muy intenso, en un partido como se juegan las finales, se definió esto desde el punto penal. Y en los penales, Chile no falló. Y la Argentina pudo. Avete capito? Io non so se avete visto, se avete resistito, Pier, tu fino più o meno a l'una di notte per vedere lo scavetto di Alexis Sanchez. Sì, bello, anche il pallone sulla luna di Higuaín. Sì, lo stiamo cercando anche qui all'Expo. Grazie per aver detto che avrebbe vinto l'Argentina, Pardo. Grazie. Ha portato un discreto sgarro. Scusami, Cisco, però ma devo dire la verità che un po'. Cioè, sono contento per il Cile, perché chiaramente io mediamente non è che sono contento niente mai, ma insomma ho simpatia per i più deboli mediamente, insomma, sono quelli, come anche per Celtic, quindi. E quindi sono contento, perché stava per il Cile qualcosa di storico come probabilmente non sarebbe stato per l'Argentina. Però comincia a dispiacermi, perché questa è una generazione di calciatori argentini molto forte, molto importante, che ha una qualità complessiva molto significativa, poi parliamo di Messi, e che vince poco. Non vince nulla, che poco, non vince nulla. 22 anni che non vince la Coppa questo, America. Questo dice l'Albo d'Oro, anche se in questa generazione di perdenti di talento, io l'ho detto anche prima, mi sembra un po' ingeneroso tutte le volte che va qualcosa male dire: ah, avete visto, Messi non è come Maradona. Maradona era un'altra cosa. Maradona ha vinto il mondiale, Maradona faceva la Coppa America. Messi è meglio di Maradona. No? Non lo so se Messi è meglio. Allora io ti non dico, scherziamo, io scherziamo, esci da quel corpo. È arrivata la polizia, vi avviso, è arrivata la polizia. Messi è meglio di Maradona in un'altra cosa. Guarda, io ti dico questo, rifiuto il paragone. Rifiuto categoricamente il ragionamento che dice che Messi non è decisivo nelle partite importanti. Messi è stato mille volte decisivo nelle partite importanti, nelle finali di Champions. Cioè, non è da questo punto di vista un tacchino freddo come la storica definizione di Stefan Edberg, non è uno che non ha la capacità o la personalità per gestire certe situazioni, ce l'ha e l'ha dimostrato mille volte. E la nazionale è chiaramente una strada molto stretta, perché in nazionale, diciamocelo, hai una possibilità ogni 2 anni, quindi sei appeso veramente a quel giorno, quella data astrale, quella situazione lì, e può succedere che tu possa perdere delle finali, come è stata l'Argentina nelle tutte due occasioni del Maracanã l'anno scorso e quest'anno contro il Cile, e cambia completamente la storia, perché se ieri l'Argentina avesse vinto ai rigori, oppure se Higuaín avesse segnato il famoso gol l'anno scorso sulla 0-0 con la Germania e l'Argentina avesse vinto il mondiale, questo tipo di ragionamento contro Messi sarebbe caduto. È vero pure però che Messi dell'Argentina mediamente non è il Messi del Barcellona. Cioè anche in questa, anche adesso poi vedremo, però sarà anche colpa degli altri 10, io questo dico. No, ma è una questione anche di personalità, il nazionale deve avere una personalità probabilmente che certamente che Messi non ha, cioè quella leadership che Messi non ha. Però nel Barça ce l'ha, in una squadra che si allena insieme tutti i giorni, in cui è nato e cresciuto, in cui è la stella designata. Cioè quando ti chiedono di prenderti una squadra sulle spalle, come spesso succede in nazionale, ci vuole un tipo di personalità che probabilmente a lui fa difetto, ma anche dal punto di vista della leadership. Cioè tu lo guardi, non è Maradona da quel punto di vista, sicuramente non è Maradona, ma non è neanche, ripeto, forse un leader nel Barcellona. Ingeneroso. Questo discorso secondo me fatto puntualmente il giorno dopo una finale persa è un discorso ingeneroso. Vi segnalo che la finale di questa notte era la partita numero 67 di Alexis Sanchez in stagione. 67, alla faccia di quelli che sono stanchi alla 50esima, la numero 73 se consideriamo da inizio giugno dell'anno scorso il mondiale. Quindi un vero Highlander. Direttore, no, posso dire una cosa? Mi permette? Posso fare? Prego. Allora, ho sentito che criticavate Messi. Sì. E allora io, giusto appunto, sto organizzando dei viaggi a Međugorje. Viaggio in bus, andata e ritorno, bed and breakfast a prezzi vantaggiosissimi, e i primi che si iscrivono regalo anche il mio libro autografato. Paolo Brogi. Si può fare? Sì, no. Genta, vieni anche tu? Non so, Genta non viene perché va in vacanza la domenica, quindi non può venire. Solo la domenica, perché tutti gli altri giorni c'è tutti convocati. Assolutamente. 800 24 00 24. Alessandro da Modena. Alessandro. Sì, ciao a tutti. Ciao. Volevo sapere, secondo voi, chi sarà il capitano dell'Inter una volta che lo scandaloso Ranocchia... Ma perché scandaloso? Perché, povero Ranocchia. Ma perché scandaloso, Alessandro? Perché è una mela marcia. Come dice Silvio, è una mela marcia. Ah, è una mela marcia. Questo ascoltatore mi risulta essere super professionale e ritengo sia una persona molto coesa e positiva. Io non credo, Pier, che farà ancora il capitano dell'Inter Ranocchia, però se devo essere sincero, penso che dare la fascia, come ho letto, a Miranda, che arriva fra due settimane, o dare la fascia, ancora peggio, ad Handanovic, che da mesi va avanti con il tira e molla, io non so se è all'altezza di un grande club. L'anno scorso voleva andare alla Vidic, La fascia al portiere non la darei mai, per motivi, perché parlando con vari allenatori, comunque il capitano serve che sia in mezzo al campo. Tante volte il portiere è lontano in certe situazioni, chiaramente l'autorevolezza di un capitano, anche qualche libertà in più nella dialettica con l'arbitro, può essere utile, e andando quindi al portiere non la darei a prescindere. Sono d'accordo con te sulla fascia. Io ho grande curiosità e grandi aspettative da Miranda, perché per me Miranda è un giocatore perfetto, potrebbe essere arrivato nel momento della maturità, quindi mi aspetto ottime cose da lui. Credo che ci sia su Ranocchia un po' un'etichetta. Io credo che Ranocchia adesso ha questa etichetta da brocco, per cui per carità, anche lui l'altro giorno ho visto qualcuno si carica anche le colpe degli altri, secondo me. Sì. Cioè la fase difensiva dell'Inter da un paio di stagioni fa acqua da tutte le parti. E poi Ranocchia è quello più visibile, è quello, sì, poi è quello che quando sbaglia bene. È proprio un giocatore che è stato preso di mira, è il bersaglio facile di tutti i tifosi interisti. Secondo me non è un giocatore così scarso, tutt'altro. Sai chi lo vorrebbe? Il Napoli di Sarri, te lo faccio sentire, Sarri. Io direi si deve ripartire da quelli che c'erano già, perché il Napoli aveva dei grandi giocatori. È una squadra che aveva una pericolosità offensiva enorme, forse la più forte del campionato sotto questo punto di vista, quindi si deve ripartire da quelle. Poi mi sembra che in questa fase di mercato si dia molta cassa di risonanza ai giocatori che provengono da campionati stranieri e molto meno ad altri giocatori. Poi ancora Sarri sul mercato del Napoli. Reina è un giocatore che era già stato in Italia, penso sia uno degli acquisti più importanti di questa fase di mercato, ma nessuno l'ha sottolineato. Poi Valdifiori è un ragazzo a cui il Napoli aveva pensato sinceramente prima che a me, quindi molto probabilmente Valdifiori sarebbe qui anche con un altro allenatore. Il giocatore ha fatto benissimo e ci può dare sicuramente una grande mano. E poi se arriva Alan, è un giocatore che ha fatto una stagione straordinaria e non vorrei fosse sottovalutato per il semplice fatto che è un giocatore proveniente dal campionato italiano senza un nome esotico. Io non lo so se è sottovalutato, di sicuro il Napoli se lo prende non lo paga poco, Pierre, 11-12 milioni più due giocatori da girare al Watford per grande gioia dei tifosi dell'Udinese. Franco da Latina, Franco. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo, sono un tifoso juventino, volevo fare una domanda. Se secondo voi la Juventus ha preso il sostituto di Pirlo e se è in grado di vincere il quinto scudetto consecutivo? Grazie. Non credo che la Juve abbia preso il sostituto di Pirlo, che è Marchisio. Non so neanche se desidera, ma non so neanche se Pirlo è sostituibile, per la verità. Quindi non credo che andrà alla ricerca di un giocatore. Poi c'è sempre il tema, perché Allegri gioca di solito con un uomo diverso davanti alla difesa. Sì, beh, Allegri, adesso, al di là del fatto, l'abbiamo detto mille volte, che secondo me non c'era un problema di compatibilità, ed è stato portato ampiamente quest'anno tra Allegri e Pirlo, cioè la decisione di Pirlo di lasciare il Milan, una decisione essenzialmente di carattere contrattuale, benedetta tra l'altro dalla società rossonera in quel momento lì, insomma non c'era la Juve ha offerto di più, non c'erano le condizioni per rinnovare il contratto e non ci furono manifestazioni di piazza dei tifosi del Milan per protestare contro quella cosa, quindi vuol dire che non fu così scandaloso come... Però detto questo, è chiaro che Allegri ha dimostrato di poter anche giocare e di apprezzare un'altra idea di centrocampo, se vogliamo un po' più fisica, un po' più muscolare, un po' meno tecnica. Quindi secondo me non ci sono particolari problemi da questo punto di vista. Per la sua filosofia di gioco non serve necessariamente un vice Pirlo, al di là del fatto che Pirlo comunque fosse anche solo per le punizioni e per i lanci, sì, è difficilmente sostituibile. Può vincere il quinto scudetto consecutivo, secondo me sì, secondo me è la favorita. Pole position Juventus, dai. Pole position in una griglia che non è come quella del Gran Premio di Silverstone, dove da 5 anni chi partiva in testa finiva dietro, ma è una griglia in cui quelle che inseguono hanno un gap di 17 punti da colmare. 17 sono tanti, anche perché la Juve si è mossa parecchio e si è mossa bene su questo mercato. Posso chiederti, perché ce lo scrive un amico al 349-238-6666, Pierre, se è vero che sei stato promosso la domenica sera Canale 5? Io non so nulla, l'ho letto su Fulvio Bianchi, anzi quasi lo volevo chiamare per chiedergli chi gliela ha detto. No, io non so nulla, al momento c'è stata la presentazione dei Paris Cesti con Tiki-Taka confermato in seconda sera su Italia 1, quindi insomma... E quindi niente Canale 5, ma soprattutto... Però non lo so, ma chi lo sa, però noi ti possiamo annunciare... abbiamo qui anche qualcuno più importante di noi che lo farà, che sei stato confermato invece dal 23 agosto e in esclusiva per 3 anni, no, non lo so, vabbè, dal 23 agosto per la ripresa di Tutti i Convocati Weekend. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Io non capisco, ma pure Pardo, ma non, poi non si sente un... No, Pardo ce lo teniamo anche col telefono. Pier, ti salutiamo, che poi noi andiamo in Francia dopo il traffico. Ciao, ragazzi, noi ci sentiamo domani, domani alle 2. Noi torniamo domani, ovviamente, la relazione settimanale, e poi al 23 agosto ci partiamo. Dal 23 torniamo anche la domenica dalle 17 alle 19. Traffico. Vi posso salutare. Traffico, tutte, sì, lo possiamo salutare. Tutti convocati. Convocati. Andiamo al Tour de France con il nostro Pier Augusto Stagi. Ciao Pier. Ciao Pier. Ciao, buona serata a tutti. Raccontaci un po' com'è andata. Non è stata una buona giornata, forse era meglio sentirci ieri. Nibali ci aveva così preparato il palato. Oggi tra l'altro doveva essere una tappa abbastanza adatta a lui, adattissima alla sua squadra, che è stata attrezzata e strutturata proprio con un paio di corridori olandesi come Lars Boom e Vestra, che servono proprio per tappe come oggi, per tappe ventose, gelide, cariche di pioggia, perché sembra facile ma non è così facile, soprattutto a quelle latitudini dove soffia il mare del nord, che il vento lì è veramente forte, bisogna saper fare i ventagli, come si dice in gergo tecnico. E come è andata a finire? L'avete visto tutti, in realtà c'è stata una componente di sfortuna. A un certo punto, a 45 km dal traguardo, Vincenzo Nibali è rimasto coinvolto in un accaduto. Il gruppo si è frazionato in tre gruppi, Nibali è rimasto letteralmente da solo e quindi è stato messo in scacco in modo particolare dai Saxo Bank di Alberto Contador, dagli Sky di Chris Froome, dagli Ethics anche di Rigoberto Urán, che sono rimasti nel gruppetto di testa. Il gruppetto di testa è composto da un 25 unità e dietro Nibali a inseguire hanno perso 1 minuto e 20. Non hanno perso il tour, ma io credo che la tappa di oggi non sarà facilmente recuperabile. Resta nelle gambe, resta nella mente, crea stress, crea soprattutto grande convinzione nei tuoi avversari. Tu oggi patisci un KO, ma Contador e Froome in modo particolare, che sono due dei Fab Four di questo Tour de France, questa sera se la ridono e si godono a pieni polmoni una giornata estremamente positiva. Siamo verificato ieri che Nibali la gamba ce l'ha, perché poi la buona notizia di questi primi due giorni è questa, che abbiamo visto che Nibali la gamba ce l'ha. Breve riassunto: maglia gialla Fabian Cancellara e vittoria di tappa Greipel. Però questa annotazione, Carlo, che Nibali la gamba ce l'ha e lo abbiamo visto ieri, quindi la preparazione, su cui c'erano anche dei dubbi, è stata una preparazione probabilmente calibrata bene, fa sì che possiamo mantenere qualche speranza. Ma sai, comunque il tour è questo, cioè al tour ogni tappa, anche quella che di oggi, si correva in situazioni difficili, climatiche, perché sappiamo, ha spiegato perfettamente Pier Augusto Stagi, mare del nord, vento, tutte queste cose. La verità è che al Tour de France ogni tappa è tirata allo spasimo, quindi devi avere gambe, devi avere nervi, devi avere freddezza, perché in qualunque tappa tu puoi beccare 2 minuti, è quello che è successo più o meno oggi a Nibali, e puoi recuperare 2 minuti. Quando c'è quel tipo di concorrenza lì diventa difficile, quindi ha ragione Pier, non decisiva ma un segno meno importante purtroppo sul Tour de France di Nibali. Pier, Nibali a parte, chi sta pedalando meglio? Ma sta pedalando bene Froome, perché non sta buttando via niente. Anche oggi non ha, addirittura aveva due compagni di squadra, era nel gruppettino di testa e non li ha fatti praticamente mai tirare. Quindi ha visto che c'erano soprattutto i Lotto, che erano i corridori della di Greipel, di Van Garderen, gli uomini di Contador che lavoravano, e soprattutto anche gli uomini di Rigoberto Urán, ha fatto lavorare loro, e quindi lui è rimasto bello tranquillo, è andato a spasso, anche se la giornata non era propriamente indicata, perché era meglio starsene a casa con magari il plaid sulle gambe, però è andato a spasso. Gli altri hanno un po' faticato, ma neanche eccessivamente. Chi ha faticato molto, torna la bomba, e sono quelli che sono rimasti dietro insieme a Nibali. È rimasto dietro Quintana, tanto per citare un altro nome grosso che è quarto per vincere, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot e compagnia pedalata. Serviranno a questo punto, servirà qualche imboscata, Pier Augusto. Ci ricordiamo il tour dell'anno scorso, fu deciso non dalle montagne o dalle crono, ma dalla foresta di Arenberg, perché quella fu la tappa in cui il Tour de France prese un indirizzo. A questo punto io credo che chi insegue, a partire da Nibali, dovrà inventarsi qualche imboscata, che non credo possa essere in montagna, sarà in tappe diverse. Guarda, le imboscate generalmente, a meno che non sei folle, è fortissimo, le fai in quelle tappe intermedie dove nessuno si aspetta l'attacco, perché poi sulle grandi montagne è sempre rimangono la crema della corsa, c'è un uno contro uno, c'è la marcatura, la Claudio Gentile con Maradona, veramente ti si aggrappano alla maglia e se possono anche alla crema. Invece in tappe come quella di domani, che c'è il muro di Uri, molto particolare e difficile, anche domani tappa veramente delicata, e secondo me, io non voglio essere pessimista questa sera, ma non, io ero molto ottimista per quella di oggi, abbiamo visto come andata a finire. Domani invece è una tappa per corridori scattanti e potenti, che non è propriamente Nibali, perché è più passista, quindi io un corridore tipo Rigoberto Urán, Valverde, Joaquin Rodriguez per fare qualche nome, dico anche Contador. Quindi per assurdo domani Contador e Rigoberto Urán potrebbero anche guadagnare qualche secondo, parliamo di 15-20 secondi, però sai, se già un minuto quando e mezzo da uno e mezzo diventa anche pesante, ma noi siamo qui pronti per essere smentiti, sì, da... certo. L'altro giorno parlando con, sai che l'altro giorno parlando con Savoldelli, lui ha messo il circoletto rosso sulla tappa di domani col muro di Wii, vedi che siamo, non lo sapevo, però siamo sulla stessa lunghezza d'onda. E però invece quella di martedì, altra tappa delicata e importante, dove mi auguro e spero che ad esempio due corridori che hanno veramente deluso, sono Lars Boom e Vestra, che sono due compagni di squadra olandesi presi apposta per tappe come queste, compagni di squadra di Nibali, siano fondamentali e strategici nella tappa invece del pavé, dove l'anno scorso sostanzialmente Vincenzo Nibali costruì il suo successo, come ricordava giustamente Carlo, no? Lì Vincenzo ha messo KO purtroppo Froome, che era caduto, e Contador, che perse quasi 3 minuti. Ecco, lì forse vediamo l'occasione, cosa succede martedì, se c'è la possibilità di riaprire questo tour. Importanti se martedì due giorni. Si esce con le ossa un pochino più aggiustate, con qualche ingessatura ben fatta, beh, e se no sarà veramente molto... Se no si volge al pessimismo. Grazie Pier. Ciao Pierino, sentiamo domani. Grazie a voi. Ciao Pier. Ciao. Grazie a Pier Augusto Staggi, siamo in fondo. Allora, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, e Claudia Schiattone, che è stata autrice quasi per tutta la stagione di Margherita tutti i convocati weekend, e poi anche oggi Andrea Roccabella e Valeria Bernardi in regia Milano, Gianmarco Ferronato che ci assiste qui a Cibus e Italia, Padiglione in Expo, Berlusconi, Cosmi, il Papa. E c'è l'ultima bomba di calciomercato, vi annuncio che Bruno Vespa viene ceduto al Carpi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, speriamo sia così, così ce lo leviamo definitivamente. Per fortuna noi andiamo in vacanza per la domenica fino al 23 agosto. Ciao a tutti, ciao. Tutti convocati per in vacanza? Ma di che stiamo a parlare? A me non mi frega niente. Ritorno il 23 agosto. Mazza tu. Le disgrazie non finiscono mai.